Sì, perché? Sì, perché? Ma è possibile sentirti spostato così tanto un apparecchio in AM? Mi sembri a 27.077, ti ascolto perfettamente, sembri un po' spostato. Sarà il contrario forse, non lo so, non so che non lo controllo, ma mi sembra strano così spostato, molto, molto strano, aspetta che aumento qua, va bene, ora è regolato bene, scusa. È giusto? Non lo so, dovrei controllarlo, dovrei attaccare il frequenzimetro. Ah, vabbè, non c'è problema, perché ti sento un po' come quando sei fuori frequenza. Adesso ho provato a centrarti, aspetta, te lo dico esattamente, vabbè, questo è sempre, non è che sia un coso, un apparecchio da laboratorio, dovrei farlo con un'altra cosa per avere la frequenza esatta, con un altro tipo di apparecchio, cioè quello è perfetto, però mi sembra leggermente spostato, vabbè, probabilmente già si risolve, dai. Ok, vai Tony. Ok, ma tu mi hai comprato la Lidl quando è uscito con l'offerta della cioccolata a banco, costava 219 euro, cosa su internet 220, dirò che è un amore tagliato la legna, guarda, poi ho preso anche la troccatrice che ho preso da Bricomè, che ho pagato 69 euro, sono attrezzi che li uso e mi servono. Non so quanti attrezzi ho comprato in officina, non mi ricordo quella marca che c'è da Bricomè, nemmeno da Bricomè, dalla Lidl, ma sono veramente costruiti bene, fatti veramente bene. Poi la maggior parte dei prodotti sono assemblati in Germania, sono magari la componentistica può essere scaccina, però ti posso dire abbiamo preso delle molette a cosa, a batteria, dei trapani, ma lo sai quanti anni ce li ho? Una bomba, stanno sempre, andando le batterie lo stesso, poi non parliamo di altri tipi di apparecchi, di oggetti, di cose, ho preso una telecamera, quella che c'ho io, che c'erano uguale identica ai vigili del fuoco, la telecamera endoscopica per guardare, non so se ce l'hai presente, una specie di flessibile lungo che c'è, la fibra ottica e c'è un display, l'ho pagata mi pare 70 euro, c'erano identica, uguale proprio i vigili del fuoco, loro l'ho pagata, erano dall'altra parte quasi 300 euro. Sì, io l'ho comprata infatti, mi sono pentito. Sì, poi lì alla Lidl ho preso tutto, c'ho tutto. Oggi ho preso la sparachiodi, le sparagraffette elettrica. E poi ho preso un altro trapano a batteria, che poi ce ne ho altre due comunque. E poi ho preso il cartuccio, lo sconosci, quello che a batteria che taglia il seghetto lungo, tipo un seghetto alternativo, ma taglia è orizzontale ed attrezzo. Però anche io, una bomba è quello lì, quello è una bestia, ho tagliato di tutto, lamiere, legno, plastica, plessi, tutto quello che c'è, perché poi c'ha le lame per il ferro, per la plastica, per l'alluminio, tutto, lo uso tantissimo io, perché noi facciamo anche modifiche per dire nei furgoni, se devi mettere aperture, a un coso, l'ultimo che abbiamo, vabbè, l'ho fatto anche nel camper mio, in un furgone modificato, ma in un coso, in un vecchio buggy della, cioè ricordi quelli a Volkswagen, il furgoncino col motore maggiolino, che è poi uscito il T3, T4, eccetera, eccetera, e abbiamo messo le aperture, i vetri scorrevoli, tutto usato con quell'attrezzo lì, ma è una bomba. Sì, in effetti è roba tedesca, è verde scuro, ma sono soddisfatto, guarda. Ma parliamo poi di altre cose, cacciavite, cose, di tutto preso. Io non so neanche più cosa tutto ciò, guarda. Io ho degli armadietti in plastica due ante, con scaffalature ne ho quattro, una pila di roba. Anche mio figlio dice, ma cosa ne fai, tu dove c'è roba? Ha detto, guarda, quando domani non ve la posso più te la vedi tu. E cosa mi sono preso? Un tir. Ragazzi, io vado in carica e ci sentiamo più tardi. Ciao Tonino, ciao Fabrizio, ciao Roberto. Spero di rientrarvi più tardi, corretti per me. Carica di ciao, carica. Non so se ci sarò, poi io rimango ancora un pochettino e poi vado via. Comunque buona carica, buon tutto. Riccardi, dai. Poi quando vuoi passare in officina di là tuo babbo non ci sono problemi. Ehi, penso di passare domani. Posso fare una chiamata un minuto? A me? Sì, a te. Certamente che sì, avanti, dai, chiamami nel frattempo. Ok. No, ti rimango in ascolto, dai. Ma c'è qualcun altro qua Tony in questo canale, oltre a te Fabrizio che è in ascolto era Riccardino, chi c'è? C'è qualcuno su 10? Perché quando ce l'ho io più di un'oretta fa, prima di mangiare, c'era un sacco di gente, eravamo tutti sul 20 perché c'era. Scusa il telefono. Ma adesso l'ambulanza. Ti ha coperto di voce, Robè. Già le due luci, sì. No, se mi sta ascoltando io mi sposto un attimino dal baracchino. Sono rientrato, chi c'è qua? Hola? vicino al presidente. Sta uscendo un po' maluccio, fa. Capa, stai capendo due cose. Così va meglio. Sì, molto meglio. Cosa c'avevi? Il microfono, batteria scarica? No, negativo, c'avevo quell'autobox accesa. C'avevi? L'autobox accesa e mi rientra tutto. È così. Poverina, senza neanche il coperchio. Magari neanche il coperchio e smette di fischiarmi, capace, cioè. Fatta bene, devi vedere come è fatta questa radio, 4 kg e mezzo. Io ho degli autobus, quando capiti in ufficio te li faccio vedere, quelli vecchi che avevano solo la, come si chiama, le onde medie, basta, poi quelli stereo 8, ne ho diversi tipi, ne avrò una diecina, la maggior parte sono della autobox, e poi c'ho qualche Voxon, poi c'ho dei Philips, c'ho addirittura un Clarion molto molto vecchio, non pensavo la Clarion facesse negli anni 70 quei tipi di apparati, e proprio senza la FM neanche, poi c'era quell'altro che c'era l'FM opzionale che pesa 2 kg solo dall'FM. Cappa, io ho anche la Shuttle, la prima autoradio europea digitale. E qual era la prima? Aspetta, ma fatta in Italia, cioè fatta in Europa o fatta in coso? No, guarda che noi eravamo leader in elettronica in Europa, cioè per quanto sentiamo Europa tedesca, fatti bene eccetera. Ti faccio un esempio. Indovina chi sono stati i primi a costruire televisori a colori in Europa, PAL. Tu la stai studiando, la Sirio stai parlando, quella con il display rosso. No, la Challenger della Autobox. Poi ho anche la seconda autoradio digitale creata in Europa, che è della Voxon, la linea verde. Sì, no, le conosco tutte quelle autoradio. No, ti ricordi la Sirio, quella che aveva solo l'indicazione digitale, no? Era una radio analogica, però col coso digitale. La prima radio proprio totalmente digitale è stata, non so se era l'Autobox, con la marchiata Autobox, che era verde, strana, tutta avveniristica. Cappa, che c'era la tastiera sulla destra, con tutti i tasti, con i numeri, come se fosse una calcolatrice, cioè sembrava una calcolatrice a vederla. Sì, quella è abbastanza potata a me. È una bella radio. No, noi sulle autoradio eravamo all'avanguardia, nel senso si spopolava tutta la linea Autobox, Audiobox, Voxon, ricordo, tutte le macchine c'era. Poi c'erano anche quelle tedesche, erano ottimi sintonizzatori, io mi ricordo i vecchi Becker, i Braunpunkt erano delle cose da fantascienza. Aveva un Braunpunkt, mio fratello, costava una cifra da paura, all'epoca costava 1.700.000, faceva un sistema di servoassistenza di coso, per i comandi del coso, della tastiera, cioè mi ricordo, si chiama, della cassetta micidiale, c'aveva tre sintonizzatori perché sceglieva di quello che si sentiva meglio dei tre a seconda della zona, tipo un RDS però all'interno del coso, cambiava di sensibilità, c'aveva un preamplificatore e li correggeva, ma bello, un bellissimo autoradio, c'aveva una sensibilità allucinante. Ma ti ricordi quella che c'era, la FC meccanico, hai presente? Di che cosa? Di che Max? Allora c'era Grundig, l'ho visto così, e poi vabbè, papà aveva un autoradio che era numero uno, solo radio, onde medie e onde lunghe, però ti parlo di tre stipendi di insegnante del 73, indovina di che marca era? E boh, cosa? Philips? Invece una Panasonic, made in Japan, cioè cosa grossa. Marchiato National proprio, sì, c'ho qualcosa della National. Ho marchiato National Panasonic, che non sono né uno né l'altro il marchio giusto, così come non è neanche Technics il marchio giusto, perché alle spalle c'è quel colosso che si chiama Matsushita, cioè il vero marchio è Matsushita, te lo immaginate. Sì, ma subisce, ma l'uscita è proprio il marchio, poi c'era la parte F e la Tecnici, poi c'era il Consumer, c'era National e poi c'era la Panasonic, poi hanno fatto National Panasonic e poi adesso non esistono più neanche, non ne ho più visto. Io ho un grosso apparecchio marchiato proprio, che è una bestia, un apparecchio grosso degli anni 70, che c'ha il registratore, il sintonizzatore e poi c'ha le casse staccate, ma una bestia, se lo vedi, di larghezza sarà 80 cm, è marchiato National Panasonic. K è stata anche la prima radio di casa portatile, tra l'altro ce l'ho ancora qua, monofonica, cassetta 6 mm, cioè proprio compact cassette, proprio, capito, novità, standard appena uscito, radio solo AM, ma con, cioè solo AM/FM senza onde lunghe, alimentazione esterna e 4 torce, proprio la prima. prima radio, io mi sono innamorato, guarda, della radio, con questa autoradio Autobox che ho qua, e con quella National Panasonic, che perché là posso stare Radio Monte Carlo, che è la radio più giovane che c'era, perciò. Bravo. 701 kilocicli, diciamo, ecco, la più potente radio on the media d'Europa. Brecce d'abbraccio. Esatto, esatto, con Federico Londa del volante, oiui, che infanzia che ho passato. Avanti Brecce, bravo, dai. A Guanagana pure c'era. Ok, saluto a Fabio e a Roberto. Voglio sapere se c'è Riccardino, perché dobbiamo discutere per incontrarci domani, c'è un appuntamento su canale 10, ditemi se c'è o se c'è Riccardino, fatti avanti. No, è appena andato via a mangiare, ma rientra dopo, già rientra, io tra poco vado via, però Riccardino ha detto che rientra dopo, mi ha accennato qualcosa comunque Giovanni, dice vi dovete sentire. Ok, praticamente siete tu e Fabio, così. E più forte della frequenza. Ma siamo più forti, siamo più vicini e siamo fortissimi come segnale. Già ne ho sfacciato, c'avevo un Panasonic, National Panasonic, era una cannonata, mannaggia, riceveva tutto, anche nel serpino, non so manco dove cavolo sia andato a finire. E io purtroppo ho la mania di sperimentare, a volte sperimentando, cercando di l'impossibile, diciamo, gli apparecchi, diciamo, spesso e volentieri, almeno prima, diciamo, li sfasciavo, adesso non ne tocco manco lontanamente, perché innanzitutto non c'è tempo. Ok Fabio, salutone, ti rilascio il micro. Camma Giovanni, mi sa che devo cambiare la batteria, perché il microfono ogni tanto si mette a fare tutto strano. Mi hai sentito Giovanni? Sì, Riccardino rientrerà, credo dopo, doveva fare carica batterie e poi rientrare. E tu la stai lunga con questi apparecchi, stiamo parlando di periodi in cui tu spaziavi lungo il lato con le radio, con tutte queste cose, o sbaglio? Sì, facevo anche apparecchi strani. Penso che ho fatto un apparecchio, no? Perché facevo effetti speciali, no? Ero riuscito a fare un apparecchio che simulava i lampi, proprio le folgore, ma le folgore veramente, diciamo, un apparecchio dava 5.000 volt, magari non aveva, diciamo, non aveva molti ampere, però la scarica era forte comunque, no? E ci mettevo un quadro mio, per dire, un quadro che ci posso dire spaziale, ad esempio il paesaggio di Marte, di Venere, e poi magari con questo apparecchio qua simulavo i lampi e roba del genere, effetti speciali che tra l'altro mi hanno fregato, proprio quelli di Canale 5 mi hanno chiamato a Milano, ho lasciato il nastro là, poi li ho anche denunciati, per dire, ma non avevo la potenza per attaccarli, in poche parole, no? Ci volevano avvocati con gli ori quadrati proprio per attaccarli, cioè, fra colori ed effetti speciali fatti con, appunto, con questi apparecchi che mettevano a 5.000 volt, ho simulato delle cose che allora erano una novità, adesso ormai non c'è più nulla da inventare in quel campo, perché ormai c'è tutto, diciamo, col computer e altre macchine nuove. Ok, ti lancio il micro e poi fai passare Robert, ciao. Kappa, kappa, bellissimo, sì, che testa che c'hai. Mi aggabbo, quei fulmini. Robert, ti piacciono i fulmini? Ma lui, adesso te lo confermo a lui, è vero Giovanni che ti hanno rubato a te la sigla finale di un programma della RAI, lui era andato a farlo vedere questi effetti speciali, come si chiama quel programma della RAI che ti hanno messo gli effetti tu e te li hanno rubati, gli ha dato il mazzo dei campioni, sì, li faremo sapere se li hanno usati loro, che programma è? Diciamo Quark, pensa che è avvicinato anche quell'animale, ma meglio che non dica il nome, va. Che avevano trovato forse importantissimi gli effetti che avevo fatto. Cosa hanno fatto questi animali? Hanno preso i miei effetti e li hanno mischiati ad altri, no? Hanno fatto tutto il possibile in modo di diciamo di corromperli, e cosa vuoi? Io non avevo la potenza di mettermi avvocati, diciamo, coi contracazzi, diciamo, ecco, per attaccarli. perché sono dei criminali, guarda, lo dico sinceramente, a volte tu li vedi in televisione, sembrano persone serie, non so come si chiama, invece molta di questa gente sono dei balordi falsi, guarda, io sono andato 3 volte a Roma, alla RAI, in via Tevulada, in via in un altro studio, dove c'era anche, di quello non mi ricordo, un certo Luciano Scaffa, che era un dirigente, un delinquente disgraziato, l'ho lasciato il nastro, dice sì, lo richiamiamo appena possibile, ti sto dicendo anche il nome perché non mi vergogno, oggi come oggi se trovo un avvocato come si deve, diciamo lo denuncio lo stesso, ecco perché non mi vergogno manco di dirlo in frequenza, diciamo. E quella è una dirigente della RAI, Marchione proprio, magari c'è gente che manco voi ve l'immaginate. Io ci sono stato alla RAI, diciamo una 15ina di giorni addirittura, no? Cercando, facendo vedere gli effetti come li facevo, foglionata, ho fatto una foglionata, ma quello immaginato. E poi ne sono tornato praticamente, dopo un mese mi hanno chiamato, interessanti, dici i suoi effetti, lo richiameremo in un altro momento, ma non mai chiamato, ho sollecitato col cavolo, se li hanno presi e basta. Capito. Quelli sì che sono dei geni. No, sapete, io mio padre è rimasto qualche giorno a Mediaset, quando si chiamava Film, probabilmente ancora. E niente, dice, allora guardi, ci facciamo un'altra spesa e così vediamo. C'era Marco Balestri, dice, e questo cos'è? Ma di questo è la benzina che ho messo in macchina per andare all'aeroporto. Quello è con 30.000 lire? No, almeno 80 ce le vogliono, gliela corretta. L'unica esperienza con network grossi che ha avuto vicino. Ma se in mezzo ce l'ha per tutto, poi più va in alto più ne trovi. Specifici ancora? Sì, sì, no, allora io adesso voglio aggiungere altre cose. Allora, siccome, non so se lo sai, ha fatto anche dei film, come si chiama, Amico Giovanni, è venuto a casa mia e ha fatto, come si chiama quel film, quello tipo grottesco sul di fantascienza, Giovanni, racconta. Ah, ho capito, quello è tragicomico, diciamo. Due ragazzi di Torralba, li ho mandati nello spazio praticamente, no? Aspetta, come li sarei titolato, Babbo Tunnel, ragazzi extraterrestri, quello, ma l'ho proiettato al cinema di Torralba, ma si sono divertiti veramente. Naturalmente bisogna stare attenti perché poi magari ci scappa qualche musica d'autore e ti posso anche denunciare, quindi non voglio più rischiare se la pigliere in quel paese, ma quello l'ho fatto per hobby naturalmente a Torralba, ma quello che ho fatto per la RAI e per Canale 5, per tutte e due intendiamoci, Canale 5 c'era un certo Lazzaro, come si chiama, spagnolo, no? Uno dei dirigenti, a un certo punto mi fa, dopo che averle fatto vedere gli effetti, mi fa, dice, le interessa la paternità di questi effetti? È naturale, li ho fatti io. Vabbè, le richiameremo. Anche questo mi ha fatto lo stesso scherzo che mi ha fatto la RAI, hai capito? Volevano, questo voleva, diciamo, la paternità, come li avesse inventato lui, magari mi avrebbe dato un sacco di soldi. Però non glielo potevo permettere, li ho fatti io perché devi dire che li hai fatti tu, ti puoi immaginare che gente che c'è in certi posti. E ti sto dicendo, che è venuto a casa mia, mi sono tutto camuffato, dove c'è la stazione è tutto illuminato, ci sono un sacco di effetti con tutte le apparecchiature, analizzatori di spettro, eccetera, eccetera. Ho messo tutto, lui ha portato una luce particolare che faceva degli effetti e sembrava che fossi dentro un'astronave. Io mi sono messo una di quelle maschere antigas, non so se le hai mai viste, quelle che usano da guerra, militari, quelle che ti coprono tutto quanto, ti coprono completamente la testa, c'hai i filtri laterali, eccetera, eccetera, con i filtri a carboni attivi. E lui mi diceva di dire, lui parlava, stazione, non so che sono, chiama a terra, io dovevo ripetere, l'ha registrata questa affare, l'ha messa nel suo film. E poi a casa mia sono venute altre 2 volte, abbiamo fatto dei collegamenti per una rete satellitare internazionale, un collegamento in diretta da casa mia è stato fatto 3 mesi fa, sono venuti, una mia amica ha dovuto fare qua in collegamento proprio per parlare del coronavirus, lei non è italiana e ha fatto tutto quanto da casa mia, 2 volte, 2 collegamenti ha fatto. E con la rete, infatti siamo visti in tutta Europa, a casa mia ci sono immagini su internet. E poi un'altra volta sono venuti a girare un corto nella stanza, in un'altra stanza di casa mia, sono venuti degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, stavano girando un film, c'era una scena che c'era questo, chiamiamolo mafioso, che poi era uno di quei pentiti che parlava, lui era tutto coperto, la faccia coperta con una specie di coso, di lenzuolo, e hanno fatto tutte le registrazioni a casa mia, questo lo dovevi sentire parlando, poi dietro c'erano delle immagini, apparivano delle immagini, una cosa carina, bella. Ok, avanti. Per caso c'è Giovanni, se no lascia stare. Certo che c'è, avanti Giovanni per l'amico Riccardino. Ciao Robertini, ascolta, ma cosa mi stavi dicendo? Domani ti fai vedere e a che ora mi devi dire? Oh, presto, domani cosa saranno? Le 10, le 11? Vabbè, per me va bene, se alle 10, ma forse è meglio alle 10, vedi tu se ti conviene alle 10, fammi un colpo di telefono prima naturalmente. Sì, ti chiamo prima. Va bene, un attimino solo. Robert, ti ricordi che sono venuto a casa tua, mi avevi fatto vedere una specie di trasmissione in un oscilloscopio, adesso mi ricordo che apparecchio erano, che l'ho messo in quel filmato, te la ricordi quella registrazione speciale che c'era? Adesso mi ricordo in quale parecchio me l'avevi fatta vedere, io l'avevo ripresa se ti ricordi. Sì, io ce l'ho il DVD, ma avevo dato il DVD del film, ce l'ho il DVD, come si chiama? Non mi ricordo, c'era una scena che parlo io, ma è allucinata, solo a pensarci mi metto a ridere perché ero completamente camuffato con questa maschera antigas, tutto in penombra, lui ha portato degli effetti luminosi, aveva messo rete che aveva stazione base, stazione madre che chiama terra, io dovevo rispondere sì siamo non so dove eccetera eccetera, ed era tutto ridicolo perché avevo abbassato tutte le luci, ho acceso solo le luci degli strumenti, delle apparecchiature, e lui ha messo questa luci strane colorate, sembrava una stazione, come si chiama, una vecchia spaziale, e poi lui parlava, io ripetevo, l'abbiamo fatta 3-4 volte la registrazione, poi alla fine è uscita. Hai visto Babbo Antuna, c'è il disco, c'è Babbo Antuna, quei due nuraghi, sì. Sì, è particolare, dai, una cosa da vedere, dai. È un film, specie un film di fantascienza ambientato nei nuraghi, dai, che vengono questi extraterrestri, ci trovano delle popolazioni qua indigene del luogo, ma è carino, dai. Ok, fa venire avanti a Riccardo e gli altri, io ti sto ascoltando, dai. Ok, grazie Giovanni, comunque domani ti faccio un colpo di telefono. Va bene, che c'è rimasto? Scusate se mi sono fiondato così in fretta, è perché se mi facevo scappare a Giovanni poi non lo trovavo più. Catania Radio, Riccardo, c'è Fabio, io, Giovanni e tu. Avanti Fabio. Cappa. Cosa molto interessante, cose molto, molto carine, molto molto. Allora, si deve essere alta un po' la propagazione perché su 11.660 inizia a avere 9.30 fuori a cordatura. Si deve essere un po' di propagazione per salendo. Anche stasera si è aperto. E poi tornando al discorso Fabio di Autoradio, i più carini e simpatici erano quelli a portachiave, ti ricordi che li mettevi, c'era una specie di plancia piccolina, c'era il giallo, no c'era il verde, l'arancione, il rosso, e a seconda del colore c'era uno c'aveva le onde medie, l'altro c'aveva le onde lunghe, l'altro c'aveva le FM, e lo mettevi in questa specie di cruscottino e poi te lo chiudevi in una custodia e te la piccolina lo usavi come portachiave, te lo portavi via. Cappa Foxon, ne ho una FM nera. Come nera? Sicuro che sia nera. Cappa, purtroppo qualcuno muovendo cose in cantina o in garage, insomma gli è arrivata qualche porta grossa, e c'è il frontale che è rotto in un angolo, un peccato. Monofonica fino a 104 è piatta, è un rettangolino con infinito, poi c'è il pirulino verde, come lo premi viene fuori e gli regoli la frequenza. Il volume è grande da una parte, c'è praticamente solo il volume sintoniano, c'è altro. Ma scusate, ma sei sicuro che sia nera? Sì, al 100%. Allora io non insisto perché siccome ne ho visto tantissime e nei mercatini le portano ogni tanto, la base era nera, tu la inserivi lì e poi c'era il pulsantino di sintonia, una rondellina dai, più grande, e il coso, la parte amplificatrice era attaccata, rimaneva attaccata alla macchina ed era grande, sai, 3-4 cm di grandezza, stiamo parlando della stessa cosa. Ma presumo di sì, guarda, è quella che ha sostituito questo autobox, perché io avevo 8 anni, l'ho portata su a casa a pulire le tettine, l'ho collegata al altoparlante del giradischi, ho sparato un po' di volume, avevo un corto finale e perciò per un po' questa radio non ha visto la macchina, ne avevo la faccia in terra, è uno degli eventi di casa per me. E poi ho tolto tutta l'autobox, avevo messo questa Voxon che ho procurato da un collega di Babbo, perché io frequentavo comunque la scuola di Babbo, e quando il collega hanno saputo che avevo rotto la radio a Babbo, uno gli avanzava quella, gli ha detto ascolta, per allora metti in macchina di Babbo, gli ho colleghi. E niente, di lato c'è un tassino, tu premi il tassino e viene fuori questo insetto, diciamo, no? E poi c'era la custodietta che non ho visto in giro, e te l'ha portata via, era un frontalino estraibile, il primo frontalino estraibile della storia, Voxon. Sì, Voxon era Voxon, però guarda, non ci metto la mano sul fuoco, però siccome la conosco troppo bene, quell'autoradio, autoradio, rimaneva la basetta attaccata alla macchina, è un po' più grande di una batteria 9V, di quella che usiamo qua nei microfoni, appena appena più grande, se la mettevi in un altro oggetto con la chiusura lampo, sarà 4 cm di grandezza, tu la inserivi dentro questa specie di plancetta piccolina che c'era l'interruttore di accensione di lì e regolavi la frequenza con questa rondellina un po' più grande. C'era un piccolo fessura dove si aveva la frequenza, la scala graduata, diciamo, e poi a sinistra c'era il volume. Ma nera io sinceramente non l'ho mai, la base era nera, però la radio di per sé, quella diciamo dove cercavi la frequenza, era verde, arancione e rossa, la facevo. No, negativo. Quella che ho visto io, che è l'unica che ho visto tra l'altro, aveva la base tipo grigio scuro metallizzato, e invece l'insetto era nero. Guarda, ho visto anche, sarà un paio di mesi fa, in cantina. Comunque roba la foto, ti faccio la foto, te la faccio vedere. A proposito, noi non abbiamo, non ci siamo scambiati il numero di telefono, c'è Riccardino, se vuoi chiedi a Riccardino, mandagli a Roberto il mio numero. Adesso glielo mando a Roberto, comunque ti saluto, non avevo fatto ascolto, ciao con Fabio. Ciao bello. E niente, la mia proprio era così, probabilmente sarà un modello un po' diverso, e comunque io avevo solo l'FM. Guarda, ce l'ho sotto mano davanti, allora, quella con l'FM è verde, con una striscia nera dove c'è la sintonia, e addirittura adesso sto guardando, c'è anche una specie di cubo dove la potevi portare a casa, probabilmente c'aveva un alimentatore incorporato e l'antenino telescopica, però è verde con la parte centrale nera, però erano a seconda della gamma di frequenza, c'avevano, questa è proprio quella FM, c'ha la striscia nera e l'involucro superiore e inferiore è verde. Due cose diverse probabilmente. Niente, vado in cantina, faccio la foto e te la mando. E così vedo anche il modello, la frugo e magari vedo anche le altre. Aspetta, come si chiama il modello? Non me lo ricordo neanche, però è verde, guarda, c'ha due rondelline, una per il volume e l'altra per la sintonia. Da 88 a 105 funziona. K104 la mia, mi sa. E questa è stata la prima, come hai detto tu, la prima radio estraibile portatile che ti potrebbe, che poi la mettevi dentro un astuccetto e c'era il gancetto e te la usavi come portachiavi, ci mettevi le chiavi della macchina appresso. Sì, infatti, che figata, ma ti rendi conto, io ce l'ho qui davanti, ce l'ho in mano qua, è tutto in acciaio, devi vedere questa autobox con i volani, tutto, il motore, cioè oggi con questo motore ci fai un'aria, non capito, a 12 volt. È bello che mi sto rifacendo il fatto come un tempo, ma questa qui c'aveva il manico, roba, sai cosa vuol dire che te la portavi in giro questa radio, 4 kg e mezzo, cioè è un lavoro. Allora, si chiama Tanga l'autoradio, il giallo c'ha le onde lunghe, il verde c'ha le onde, la modulazione di frequenza, e poi c'era anche il rosso, eccolo qua, il rosso c'ha le onde medie. E Tanga era l'autoradio che sto dicendo io, piccolissima, e poi ti dava una specie di scatolettina che diciamo era la parte amplificatrice che si attaccava al cruscotto della macchina. No, negativo, ti giuro che non l'ho mai vista. L'unica piccolina Voxon così, mi ricordo anche la custodia era nera e finiva con una maniglietta, è un pochettino più grande questa che ho io, praticamente sembrava una di quelle macchine fotografiche piccole che c'erano un tempo, te le ricordi? sì, ma questa è proprio veramente miniaturizzata, ti ho detto, è un po' più grande, è come che c'è due batterie a 9 volt di grandezza. Sì, le dimensioni, arrivate a questo punto penso che sia uguale, nel senso che probabilmente lo stampo da uno, la mia forse era il primo modello a livello sperimentale, poi hanno fatto queste più colorate con le varie, i vari sintonizzatori. No, io ne ho avuto una sola, ne ho visto una sola in vita mia, non l'ho vista altrove da nessuna parte, ma poi era contento perché si è messo sul cruscotto, perché questa autobox non ce l'aveva messa nel cruscotto, ma neanche per scherzo, aveva fatto un impiantino con un tasto, visto che la macchina non aveva preso in Libia, le aveva preso il tasto originale della Rover sulla sinistra per farsi l'alimentazione, e l'autoradio era nel cassetto a volume controllato, stazione controllata, perciò di entrare in macchina ci deve montare e tenere il tasto. Se non facessi perso l'autoradio, se non farò bene in plancia, capito? Scusate se riprendo, sta iniziando a piovere, quindi porto tutto dentro. Ciao Giovanni, domani ti chiamo. Ciao Fabio e ciao Roberto, vi ho mandato il numero. Ci sentiamo domani. Devo portare tutto dentro che sta iniziando a piovere forte, mi sa adesso. Ciao a tutti, a domani. Ciao Riccardo, staccate le antenne, che meglio, fate stanotte, è previsto temporale brutto, da mezzanotte sino alle 6 alle 8 del mattino sono previste pioggia forte e grande, ne c'è l'allerta a mezzo. Riccardino, buona. Buon baracco di baracca e ci sentiamo domani, grazie. Ehi, ciao Fabio, sì, come ho detto, ho mandato il numero. Bracco, domani ti diamo, se ci sei ancora. E poi te lo ricordi che poi non l'ho preso, l'ho fatto prendere un amico, a me diciamo era un pezzo raro, quello, lo specchietto retrovisore con la radio sempre della Vox sono incorporata, l'hai mai visto? Ne ho sentito parlare ma non l'ho mai visto. Sto per fargli una foto, Roberto, me lo vedere. Murphy è scritto, guarda quel modello lì, ce l'aveva Michele, un amico mio che vende roba vintage, cioè tutto quanto, dovevo far prendere, un amico, ho detto prendi, 50 euro gli ho stato dando, un regalato, l'Inter lo paghi sui 150, perché non è il campo suo, però mi ha detto guarda solo voi, siccome ho fatto prendere diverse cose ad amici, autoradio d'epoca, quando fai restauri dico sempre mettici una bella autoradio di quell'epoca lì, per dire nell'Alfa Romeo ci mettevi la Vauxhall, nel duetto, le cose, c'erano tutte le autoradio di quel periodo, di quelle che c'erano la memoria meccanica, ti ricordi? Scappa se me le ricordo, benissimo, non si rompevano mai, ma tu hai visto che meccanismi c'erano per la meccanica. Una di quelle radio, hanno iniziato da quelle radio a fare la FC e il SIC motorizzato. Sì, ma poi c'era, io ne ho una motorizzata addirittura che si sposta, tu schiacci come fa il motorino e si sposta. Cappa, di questo stavo parlando. La novità fu riuscire a mettere nella radio in macchina l'automatic frequency control, no? Che non è nient'altro che un doppio diodo attaccato alla GC, e perciò praticamente una volta che tu giravi la manopola prendi il tastino FC per un attimo e lui si centrava perfettamente la stazione, così tu non dovevi stare con la mano lì a spostare i millimetri della manopola, capito? Sì, e poi ha fatto un sistema più evoluto anni dopo, la Blau, appunto. Quando sono usciti, per dire, ti spostavi in autostrada, che c'erano i ripetitori, c'aveva tre sintonizzatori in contemporanea, cercava, ogni sintonizzatore sceglieva automaticamente il segnale migliore, istantaneamente ti passava all'altra frequenza, aveva fatto una specie di RDS prima che esistesse, aveva fatto la cosa, la, come si chiama, la Blau, appunto. E poi l'aveva fatto la Philips successivamente. Sì, sì. Nel periodo della SSC, no? Automatic Store Control, c'erano le funzioni insieme, sì, quella funzione dell'RDS si chiama EON, e infatti quando hanno fatto l'RDS, i primi RDS non avevano l'EON, e poi abbiamo detto EON, ma l'EON già esisteva per il sistema a sintonizzazione multipla che dicevi tu, ed è Blaupunkt proprio. Anche se diciamo c'era tutta la Blaupunkt, lavorava con la Grundig. Sì, ma niente, la Philips ha inventato l'autostore, lo stesso è stata una cosa rivoluzionaria quando è uscito. Io c'ho uno, un autoradio bellissimo nella barca che addirittura rimane come la parte sintonizzabile, diciamo amplificatrice, rimane attaccata, poi c'è una specie di tipo microfono con la spirale di lì, lo prendi in mano e ci sono, c'è una tastiera avanti e indietro, diciamo la scansione la puoi fare manuale oppure automatica, e poi ci sono sue memorie. Ma è bellino, c'era una barca, per dire, dentro la cuccetta c'aveva l'unità interna, poi la allungavi tipo il microfono, c'era questa spirale, fuori uscivi fuori e ti ci giravi le stazioni. Bingo, se mi ricordo una cosa, l'ho montata nella 127 rustica di una persona della quale ti ho già fatto il nome, che gli ha fatto un intervento sull'Audi, è presente? Gli ho fatto un intervento sull'Audi, ma quando poi? Allora, Marco Weisbach praticamente, c'aveva l'Audi nuova con l'impianto fonte Alpine, in tutto erano 23 milioni di impianto stereo, multiamplificazione, semplificatori, gli ha fatto contropannello, ventoline per raffreddare gli amplificatori, la moquette originale dell'Audi presa dalla German Car, subwoofer piatti messi in controparete Fosex, che erano, se non sbaglio, profondi 4,5 cm da 180 watt RMS l'uno, subwoofer anteriore da 14 o da 12 dell'acciare, messo in scatola al posto dell'airbag del passeggero, e tutto, quella era la sua macchina, che quella che in cui ascoltava la musica, con la quale usciva. Però quando andava a caccia mica ci portava l'Audi, ci andava con una 127 rustica che ci ha messo un anno e mezzo a trovarla, e non la trovava, quella con le rettine davanti ai fari, e lì non voleva mettere niente perché dice che la macchina rimaneva incustodita, e gli avevo messo appunto questa Philips sotto il sedile, e poi c'era un mic che prendeva fuori e lì c'era la frequenza con i tasti, questa che dici tu. Esattamente quella lì. E ho lasciato con la 37 la macchina, diciamo l'R4 fatta dalla Fiat, proprio spartana con le grigliette e cose, c'era un amico mio, l'abbiamo fatto tante in officina, la macchina è nata per il mercato brasiliano, quella lì dove le strade sono un po' così, infatti c'è la sospensione rinforzate, molto robusta come ammortizzatori, i sedili erano fatti in un altro modo, però era una macchina, non le trovi più, è difficile trovarla la rustica. E no, Baidra che adesso c'ha il coso, il qualche che si mangiare gran cirucchi. K, non lo vedo da almeno 25 anni, se non sbaglio era 96, quando gli avevamo fatto quegli impianti. Sì. E poi la storia di casa, l'impianto che aveva a casa, della stanza che si era fatto tutta insonorizzata, ce ne ha parlato con lui di queste cose. No, guarda, invece è una novità, non lo sapevo, fosse anche lui appassionato di quello, no, lo conosco benissimo, conosco il padre viene a sé, poi lo conoscevo già da tanti anni perché il padre era il presidente della squadra del Castel Sardo, ci ha giocato, lui gente che sta molto bene economicamente, lasciamo, e abita vicino a mio fratello, la casa vicino a lui, e il padre lo stesso ha la 4x4, la panda nuova 4x4. E capa, gli dispiace, non sono mai mancati a casa, infatti, e lui ha montato il più bello amplificatore che abbia mai avuto per mano, anzi due amplificatori, perché uno gigantesco e uno microscopico, e che secondo me quello più raffinato in assoluto era quello microscopico, infatti gli ho fatto il Twitter davanti, solo il Twitter con quello, ed era un Audition, non un Audison, Audition, hai presente, fatta a mano in America, piste oro. Ma noi stiamo parlando di amplificatori per auto, stai parlando di che cosa? Sì, amplificatori per auto. Sì, no, pensavo che stessi parlando di cosa, di in casa, perché mi hai parlato in casa, aveva un grosso impianto. E in casa aveva, non ricordo cosa avesse, però aveva un impiantino cazzuto, piuttosto cazzuto. Lui ascoltava, aveva dei brani di riferimento che erano particolari, tipo che ascoltava dei pezzi di Vasco Rossi, dei pezzi di classica, non mi ricordo se gli piaceva Beethoven proprio, e poi non mi ricordo, c'era qualcosa di rock, un po' mi ha attillato perché ti puoi immaginare quando veniva a provare la macchina che gliela stavo tarando, veniva con i dischi, li metteva, sedeva, io davanti alla macchina me la guardavo dal parabrezza, lui cambiava tre canzoni e faceva il naso, via, da capo. Yeah, ce l'ha quindi l'orecchio abituato, dai. Sì, sì, 10.000 volte più del mio, io facevo il DJ a tempo e per me non c'erano mai abbastanza bassi negli impianti, che potevi calare per ascoltare le cose in una certa maniera, però comunque logicamente tendevo un po' a eccedere in alto e in basso, anche se pretendevo la voce cristallina pulita, eccetera, infatti ne tendevo di sul. A casa avevo un crossover elettronico a tre vie e lo usavo per pilotare l'impianto di casa, figurati. Sì, la passione già rimane allora, no? Io sono sempre stato da ragazzo la musica, l'ascolto della musica, a parte vabbè, avere tutto quello che ho, sono sempre stato appassionato. L'autoradio l'ho lasciata perdere, il discorso della radio è finito in macchina, alla fine ho detto basta, ok, e per come l'ascolto io la musica in auto non sarei mai soddisfatto, dai. Avevo di tutto di più, però alla fine non spese così esagerate, ma c'è gente che spende il soldi. A me mi ha detto Stefano Sinfoni lo conosci? Negativo. Come? Negativo, no, non sai, no. Quello che c'ha il negozio Sinfoni in via Armando Diaz? È sparito per 30 anni da qua, roba. No, via Armando Diaz, scusa, via 4 novembre, prima di Fusare, un po' più giù di Fusare. C'è un negozio di orecchie buone. Cacchio, adesso vabbè, ha chiuso, nel senso vende solo su internet, non ne tiene più magazzino, ma quello c'aveva belle cose, anche Macintosh vendeva cose, diciamo, di certi pregi. Gente che ha aspettato, invece è venuto uno e ha fatto un impianto nella barca, ha speso 20.000 euro per farsi l'impianto nella barca, per dirti quanta gente c'è fuori di testa, in una barca ha speso 20.000 euro. Li ho visto, li ho visto, anche perché di barche ne ha fatto tante in costa. Il classico è il multi e la Bose, a 8 zone, perché hanno sempre almeno 4 canali da letto, poi hanno la verandina davanti, il soggiornino, un altro ambientino, insomma, Bose 8 zone, e lì ricordo che ho toccato un impianto sui 50-60 milioni anni fa. Molto bello, migliore di quell'altro che costava più o meno 80.000 euro, che ho visto 4-5 anni fa, nelle barche ci fanno davvero tanto. Lui mi ha detto che hanno fatto per un impianto da 200.000 euro qua a Sassari in una villetta, questo è appassionatissimo di coso, ha provato di tutto di più e poi ha portato, per dire, si ha comprato le Nautilus dalla BMW, non so se le conosci, sono casse che costano un sacco di soldi e non gli sono piaciute, le ha messe da parte in garage, non era soddisfatto del suono, ci ha fatto, l'ha curato anche la cosa, l'ambiente d'ascolto, insonorizzazioni di coso, insomma è un Fiat a questo, stavo parlando di tanto un Fiat, non impianto di solo ascolto di musica, ci ha speso 200.000 euro di apparecchiature e il coso della barca, non so quanto ha pagato, solo il videoproiettore della barca, una cifra da paura, 15.000-20.000 euro, solo il videoproiettore, poi amplificazioni, non so cosa ci ha messo di amplificatori, subwoofer da 45 cm della BMW, che nemmeno lo sapevo che lo facesse un sub di questo qua, amplificazione Macintosh, ci ha messo di tutto e di più, ha speso 200.000 euro. K, che assurdi, cosa ci vuoi fare? Io frugando ho trovato delle casse che costano 1 milione di euro, me ne sono guardate un po' sotto il naso, vabbè, cioè io che spendo 1 milione di euro per le casse, cioè non mi bastano, è chiaro, no? Allora, solamente stai dicendo quelle a cappella, quella stai dicendo? Quelle cose erano esagonali, avevano tutta una serie di bossi davanti, dietro una rettina, questi bossi nascosti dalla rettina, non era chiaro se fossero altoparlanti o dei passivi o dei sistemini per modulare il bass reflex, il vuoto nella cassa. Cioè c'era tutta una teoria, mi sono addormentato una notte leggendo tutto quello che c'era in quelle casse. Sì, già le cose, ma quelle sono casse amplificate, però ci sono anche quelle a cappella che sembrano dei tromboni, non so se le hai mai viste. Cappella, visto, la maniera così. Lì arrivato il cappellone. No, si chiama proprio così, la cappella. E poi se vuoi vedere l'amplificatore più potente e più spaventoso del mondo, non so se hai mai sentito nominare Andrea Pivetta. Andrea Pivetta, sì. Allora, quello lì ha costruito il più potente amplificatore in commercio, pesa 1,8 tonnellate e alto 2,50 m, costituito non so da quanti finali c'ha, cioè, mi sembra in classe A lavora, mi sembra c'ha roba di 25.000 watt in classe A e in classe AB mi pare roba di 100.000 watt, una cosa fuori dal mondo. E l'hanno presentato a Las Vegas, questo amplificatore si apre, tutto motorizzato, sembra un robot di quei film Transformer. Tu vedi questa torre alta più di 2,50 m, che si apre in tre pezzi e si vedono tutto lo stadio finale, è una cosa mostruosa, pesa 1800 kg, costa più di 3 milioni di euro questa roba. Marco, per quanto riguarda i diffusori poi come se ne esce con cassi in parallelo in serie? No, ma diciamo questo è uno studio che ha fatto e basta per dimostrare che in Italia siamo all'avanguardia nel campo acustico, elettroacustico e acustico, diciamo, ha costruito questa roba, ma questo è un genio, ci vuoi vedere a 16 anni cosa ha costruito questo, ha fatto vedere alla televisione, tu cerca Andrea Pivetta e ti vedi un pochettino, io ho l'amicizia con questo qua, se ti capita tu cerca cosa ha fatto questo, un ragazzo di 16 anni, tu dici questo è un genio, cosa ha costruito, poi ha fatto degli impianti per le macchine, la paura, qua stiamo parlando della amplificazione da 100.000 watt, non giocattolini, c'è cose da paura, in classe A c'aveva fare, non so se era 25.000 o 30.000 watt, una cosa spaventosa, non so quanti kilowatt di corrente ci vogliono per alimentarlo questo, una cosa. E poi non parliamo del peso, pesa 1,8 tonnellate questo amplificatore, e per montarlo non so quanti giorni ci vogliono perché ti arriva a pezzi e tutto sul dinamico, però gli hanno scritto, siccome qualcuno ha detto me ne hai venduto qualcuno, sì sì, più di uno ne ho venduto. E c'è gente che se l'ha comprato, qualche nababbo o qualcuno fuori di te, ma tu vedi cosa costruisce, io ho visto delle cose robotizzate, cioè questo è un genio dell'elettronica, ha fatto dei sistemi robotizzati, a 16 anni aveva invitato, come si chiama, Mike Bongiorno, mi sembra una trasmissione, Mike Bongiorno qualcosa di canale 5, e lui aveva fatto questa specie di robot tutto computerizzato che comandato a comando vocale, c'era 16 anni questo ragazzo, cerca Andrea Pivetta e poi dirai chi è questa persona, un genio dell'elettronica. Questa è veramente fuori il capo, te lo dico io, però evidentemente è partito da una base di spiccioli e si è potuto permettere di sperimentare, fare, che ci voglia attestare non c'è dubbio. No, ma tu se vedi questo amplificatore, poi ci sono le versioni più ridotte, non so quante centinaia e centinaia di cose, di amplificatori, cioè di finali ci sono qua dentro collegati tutti in serie, poi non so che cacchio di sistemi c'ha, però delle cose rivoluzionarie, cioè questa è una persona che dice ma non me ne è uscito, già a progettare quella roba lì, perché tu vedi, non so se hai mai visto quei film Transformers, che tu vedi una torre che si apre tipo a passaggio livello, che si apre in tre questa roba, tutta illuminata di luci particolari, azzurro e cose del genere, e si trasforma in una specie di base, non so come cacchio definirla, e tu vedi cosa c'è dentro, una cosa mostruosa, e quello c'ha, mi sembra 100.000 watt in classe AB e 25.000 watt in classe A. Antonio ci vuole 25.000 watt direttamente in antenna, tu cosa ne dici? Stiamo parlando qua di amplificazione, poi se andiamo a parlare di radiofrequenza ci sono degli amplificatori da megawatt, cioè in Italia non ne abbiamo, però se tu vai in paesi di, come si chiama, Cina e cose, ci sono da 20 megawatt di potenza gli amplificatori, cose da paura. Radio Vaticana era qualche megawatt, c'aveva un paio di megawatt, però ce ne sono anche da 20 in altre parti del mondo, cinesi, arabi, canali, ho visto i sistemi di trasmissione, la cosa spaventosa, solo gli accoppiatori per le antenne, c'è una cosa da spavento. Infatti io me la frugo un po', no? Mi frugo un po' le bande, le onde corte, le onde lunghe, così, con un'antenna autocostruita, e metto le cose che capisco da dove vengono, poi mi vado, faccio il mapping per cercare di capire, no? E ti rendi conto che sì, è vero che aiuta la propagazione, però non è un kilowatt, no. No, se tu vedi queste radio cinesi arrivano qua 9.40 che arrivano la notte, vabbè, di giorno le senti un pochettino di meno, ma segnali spaventosi che arrivano a migliaia di chilometri di distanza. Cioè, se per esempio la più potente stazione americana, per legge in America non puoi superare i 500.000 watt di coso, ma questi paesi tipo la Cina, che non ci sono limitazioni, devono conoscere la loro cultura, così queste stazioni arabe sono cose da fantascienza. 20 megawatt, lo sappiamo di cosa stiamo parlando, stiamo portando di milioni e milioni di watt. Non ce n'è, vabbè. Io ho visto che adesso in Italia stanno sperimentando nuove trasmissioni in onde media, quasi a livello locale. Ce ne sono in Toscana, ce ne sono nel Lazio, ce ne sono anche in Piemonte e Lombardia, più di un paio, saranno in tutto una ventina di stazioni regionali, onde media, che escono con 300, 500 watt, 800, e non escono sempre, e fanno trasmissioni da networking, in pratica un broadcast quasi a livello, diciamo, di network FM, però sono con 500 watt, cioè riuscire a sentirle. Io ci ho provato un paio di volte anche a spostarmi, a fare con lo scannerino Kenwood, ma nulla, non c'è verso di sentirle. Allora, la prima radio privata italiana è stata Radio Milano International, che poi da lì è nato Canale 5, eccetera, Tele Lombardia, eccetera, eccetera, e poi si arrivare alla media, eccetera. Radio Milano International sta trasmettendo in modulazione ampiezza, in AM. Addirittura, non so se lei ce l'abbia già la telefonia, ci sono alcune radio che trasmettono in telefonia, ma vecchie persone che lavoravano in vecchie radio FM, che poi non esistono più, si sono messe d'accordo, io facciamo una radio AM, e non ce ne sono tante, più una trentina, ce ne saranno una cinquantina almeno censite in Italia, anche di più, perché poi hanno fatto la ripartizione delle frequenze, se le acquistate un network le ha prese quasi tutte lui queste frequenze, perché lì c'era la base d'asta, poi ci sono quelle, come dici tu, di 500 watt, ce n'è qualcuna, magari c'è anche 1000 watt, ma la maggior parte sono tutti con 100, 150 watt, c'hanno posizioni altissime in punti strategici, però molte volte io non ho ancora avuto il piacere di ascoltare, soprattutto il tempo, voglio provare con quello trio, che quello è molto solettivo, col valvolare, quello grosso che c'ho io, infatti la scosomiera, questa antenna nuova che ho messo per le HF, proprio per cercare di captare queste radio qua, se ci riesco. Ma mi è capitata una qualche tempo fa, bellissima musica dava, però non mi ricordo come si chiamava, non ti posso dire il nome perché non mi viene, e davano musica come una broadcasting FM di adesso. Sì, KK, ho intravisto qualcosa così. Sai che adesso il mio scopo è organizzarmi gli apparecchietti, infatti stavo provando queste vecchie autoradio per questo motivo, no? Perché le autoradio sono più sensibili in onde lunghe. Io volevo fare una piccola console, magari in legno, o se no fare qualche prova così, solo con le radio senza scatole e niente. Puntarmi qualche monte qui in Sardegna, uscirci col camper e stare tipo due giorni con le mie antennine a vedere se becco qualcosa. Sì, piace. No, io dico, la cosa più bella è il radioascolto. Io l'ho sempre fatto sia con la radio che con i satelliti, da sempre. È la cosa più bella, anche parlare, sì, è interessante, però sentire cose è la cosa che mi appassiona più di più, soprattutto quando tiri fuori. Io adesso, per dire, e sfido a chiunque a Sassari ascoltare, ci sono un paio di radio che arrivano dalla Corsica, io forse sono aperto, c'ho un ricevitore super selettivo e riesco a tirarla fuori, con lì come i CR7000 nemmeno a fare danni, devi mettere attenuatori, solo una riesco a prendere, le altre è proprio zero, muto, con nessun ricevitore che c'ho, solo con questo che diciamo tipo Rode Swat, un ricevitore da laboratorio che fa 030 e 8808, ma se tu lo vedi come dentro ti spaventi, a parte che due volte l'ICR7000 c'è una costruzione fenomenale, tutti gli ingressi per gli strumenti, oscilloscopi, attenuatori, c'ha 1, 2, 3, 4 attenuatori più i regolabili, tutti i regolabili, questi attenuatori, filtri possibili e immaginabili, ed è anche serio, ma tu devi sentire la ricezione di questo, Fabio, io non ne ho mai sentito, l'ICR7000 7000, non so se lo conosci, non è un giocattolo, non parlo di AR3000 che è quello, 7000 è un discreto ricevitore, li fa 10-0, tu riesci appena a sentire il fruscio col coso, col 7000 e non senti niente, quello lì che te lo dà pulita e perfetta, collegata alla stessa antenna, perché io le prove le faccio con la stessa antenna, ho fatto vedere a gente che non ci credeva, ho detto guarda qua, senti un po' qua, ho fatto sentire al padre di Riccardino, si è messo le mani in testa. Posso immaginarmi. No, per l'FM io ho autoradio. Autoradio, vabbè, autoradio di qualità, quella che mi ha sorpreso e che infatti mi è sostenuto è una Clarion, ce l'ho Lulvia, con quella mi mettevo in punta di Valparanci, staccavo l'antenna del furgone, perché giravo molto col furgone al tempo, e a seconda dell'ora che finivo in costa, prima di tornare a casa, mi mettevo in punta di Valparanci, con uno stilo che potevo orientare, mi puntavo lo stivale e gli ascoltavo praticamente tutte le radio di Roma, riuscivo a scendere, sentivo anche la radio di Viterbo, qualche volta in FM ho pescato radio pugliesi, ma penso tu che scemo, adesso di punta di Valparanci, con l'antenna in mano, cercando di legare la scotch in una certa posizione sul fiorino, per sentire FM lontane, capito? Non locali. Certo è che se accetti i ricevitori tu riesci a sentire sicuramente cose molto interessanti, ci vorrebbe una direttiva. Ce l'ho la direttiva, ne ho due direttive io, infatti quella lì l'ho solo provata, non l'ho installata, la devo rimettere, proprio perché per ascoltare questi segnali super lontani in FM, nelle bande bloccate. E poi c'è un grandissimo ricevitore che all'epoca era il top, non so se conosci il satellite 3004 Professional della Grundig, che costava un'esorbitata, è tipo un radione gigante, c'è anche le bande laterali, tutto, c'ha mi sembra 14 o 15 bande di ascolto, ma tu devi sentire quello ricevendo, c'è un'antenna e due metri. In certe situazioni con l'antenna dell'ICOMO ICR7000 dentro casa, questo con la sua antenna, regolando la ruotando, perché c'ha tre livelli di coso di larghezza di banda, tre proprio, ed è una cosa rara, riusciva a tirar fuori il segnale che l'ICOMO andava in difficoltà il 7000. Lui dentro casa con la sua antenna, facendo le regolazioni della banda, della stretta, stringendoti un pochettino, ti toglieva tutta la sporcizia e sono riuscito ad ascoltare un canale da Iaccio, che trasmette da Iaccio, Radio Nostalgic, so dove trasmette, 90.000, fate la prova se qualcuno riesce ad ascoltarla, 93 tondi trasmette in coso, è quasi impossibile, perché è talmente disturbata dalle coso, adesso non c'è neanche più 92.6 Radio Antenna 2000, perché quella te la copriva di brutto, dentro casa io sono riuscito a sentire, girandola l'antenna piano piano, attenuando tutti i disturbi, sono riuscito a trovare con questo Grundig, c'è una selettività e una sensibilità da paura. K, e io Grundig ho lo Yotuboy 600, però si è fermato il PLL, ho cercato di farlo ripartire, ma al momento non ci sono riuscito, perché altri integrati custom della Grundig che non si trovano in commercio. Dunque ho provato a dargli le oscillazioni là fuori, ho provato a fargli riquadrare la banda, però si displegano molto poco, perché proprio l'integrato che mi fa gli accoppiamenti poi è quello che ha un'uscita per indicare la frequenza sul display. Con quello qualche cosettina interessante l'avevo fatta, e anche con un radione Telefunken che ho, pure quella Rubia, un radione, oh mio Dio, cioè se lo vuoi chiamare portatile bisogna portarlo in giro in due, ci vanno 10 torce dentro, a due stilo, non so se a 4 o 6 bande, una storia un po' grossa. Rigorosamente hi-fi, tra l'altro con una qualità che non so dire a dirti, perché sono attaccato un 604 della Philips, ho sentito delle cose da alcuni CD, che ho pensato sarà meglio che mi organizzo in tempo in maniera diversa, perché questa cosa del 1970 che suona meglio di molti impiantini che mi ritrovo in mano, tipo anche nel mio occhio, per dire, mi fa mettere molti punti interrogativi, capito, su questa storia. E comunque anche quello ha un bellissimo ricevitore, per quanto riguarda le autoradio, ritorno sul discorso dell'autoradio, la Clarion ha fatto un modello intorno al 2000, l'ha fatto sia CD che cassetta, io l'ho avuto CD e me l'ha facciato un operaio, però mi è rimasto con la cassetta, erano uguali, identici, il sintonizzatore lo stesso, il frontale lo stesso, però mi è rimasto quello con la cassetta, ma del nastro un po' meno a tutti, mi interessava il ricevitore. Con quello, siccome lavorando in trasportato eccetera, con quello so da Zacchena, sentivo tutte le radio così cane, immagina tu, con l'antennino del Fiorino, quella vicina del Fiat. Sì, no, Scario, voglio riportare Funkel, probabilmente lo conosco pure con l'apparecchio delle Funkel, i tedeschi no, per vantare come ricevitori non ce n'è per nessuno, anche il miglior giapponese, deve andare sull'Icom, quello 9600 per avere, però se tu vai a un Rhodes Schwarz di quei ricevitori super professionali non ce n'è per nessuno di quei. Delle Funkel, ne ho visto uno, ce l'aveva un amico, probabilmente tu stai parlando del modello precedente, che è una bestia, tipo un radione, che ha le casse, si possono anche staccare, e c'ha il display piccolo a cristalli liquidi. Non è negativo, il mio ha uno Smith, proprio un vero e proprio S Smith, quando sintonizzi ti dice esattamente che punto sia la sintonizzazione, poi ha altri due strumenti per la registrazione sulla cassetta, come una piastra professionale, poi ha un sistema di riduzione del fruscio, ha un espansore dinamico, tutto incorporato, la radio è rigorosamente analogica con pomellone e...